basta avere le galline che ruzzolano in giro da sole perché c'è l'orso, no? E quindi io lo uccido. Questo è un pensiero, è come se fosse percepito come un fastidio. Questo non da tutti, però se una popolazione di 1000 abitanti, per esempio, il paese che ha 1000 abitanti, in caccia uno, non è che serve che tutti gli abitanti pensano così, ma basta che uno solo pensi così, ma poi l'orso non è lasciato da lui? Da lui? Dal campionato che... Allora, questo è complicato, perché alcuni orsi spariscono proprio. Cioè, alcuni, per esempio, noi avevamo l'orso Mario, e l'orso Mario aveva radio dell'aria, perché gli orsi che frequentano i paesi vengono messi in radiocollare per controllarli, no? Quindi quando l'orso scende in paese, il radiocollare dà il segnale a un sistema GPS e dà il segnale al guardiaparco, che quindi viene in paese a cercare di scacciare l'orso, no? E cercare di mandarlo nel bosco. Sono spariti orsi con tanto di radiocollare, è sparito anche il radiocollare, cioè nel senso, per esempio l'orso Mario, appunto, viveva a Collelongo, una bella sera, all'orso Mario a un certo punto viveva a Collelongo e viveva alle Leva, e per 2-3 anni è stato tranquillo, no? Passi la sera incontrava l'orso. A un certo punto Mario ha cominciato, non c'erano più uova in paese, perché nessuno aveva più galline, no, no, prende anche un po' a ridere, poi il parco ci dava le casette per le galline, sono delle casette triangolari di acciaio per mettere dentro le galline di notte, se no Mario faceva così. E l'orso Mario a un certo punto ha cominciato a svalicare, quindi andare oltre la zona di protezione esterna, verso da lì ha fatto un buco. La seconda, terza sera, che il radiosignale, perché il radiocollare ha dato il segnale verso oltre il rosacco, è sparito il segnale. Adesso in genere il segnale non sparisce da solo, cioè se il radiocollare, se l'orso muore, il radiocollare dà segnale di fermo. Quando tu vedi un segnale fermo per tante ore è morto, però vai a recuperare, cioè vai a recuperare, cioè, lo segui, lo trovi, no? Lì il radiocollare proprio a un certo punto non ha dato più segnale in quella zona. Non è stato trovato né il radiocollare né l'orso. Col petto di radiocollare non sono. C'è un orso, non è che anche perché uno basta, cioè se uno va nel punto in cui da cui è arrivato l'ultimo segnale, è là dove sono. E come Mario è successo tanti anche